Giove e i fulmini da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Giove un dì dall'alto scanno i peccati rimirando che dagli uomini si fanno. Fino a quando, prese a dire, questa razza soffrirò? D'altra gente riempire men noioso il mondo io vo. E a Mercurio, va, precipita all'inferno, e la più feroce tirane delle furie, e fa che tutta questa gente sia distrutta in eterno. Ma il comando non finì, che buon padre si pentì. Prenci e re, mi raccomando, voi che siete numinterra del furor tra il baleno e il discender delle botte, deh, lasciate in mezzo almeno l'intervallo d'una notte. Va quel dio che ha l'ali ai piedi e la lingua lusinghiera e discende ove Tisifone con Megera con Aletto fanno il ghetto. Sorge Aletto e con perverso giuramento si propone di tirare l'universo nella casa di Plutone. Padre Giove il giuramento della furia cancellò e nel buio la ricaccia. Quindi fa l'esperimento di scagliare una saetta per minaccia dell'olimpica vendetta. Dalla man di un dio sì buono, padre giusto dei viventi, con frastuono passa il fulmine sopra il capo delle genti e va a rompersi lontano sopra l'erta d'una rupe alta e deserta. Un buon babbo pesta piano. Sulla via d'indulgenza prese l'uomo confidenza e fe peggio ancor di prima. Il padrone delle nuvole altre lima più terribili saette, ma gli dèi lo persuadono, l'ira sua pigliando a gabbo, di star pago al suo mestiere di un buon babbo. Venne innanzi a lor Vulcano e a far fulmini di in mano di diversa qualità. I migliori, intendo quei che non danno mai perdono dal lor trono, ce li scagliano gli dèi. Quei che fanno inutil prove e si perdono quell'là sono i fulmini di Giove. Fine della favola Giove e i fulmini. Questa registrazione è di dominio pubblico.